Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per Scuola in controluce. Scuola in controluce. 1300 studenti anche quest'anno saranno a bordo delle due navi della legalità che partiranno il 22 maggio dai porti di Napoli e Civitavecchia per arrivare la mattina del 23 a Palermo e partecipare alle manifestazioni nel 20° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Un'iniziativa questa voluta anche quest'anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Fondazione Falcone. A bordo della nave anche i ragazzi della scuola media Virgilio di Roma. L'anno scorso c'erano i bambini delle elementari di questa stessa scuola, una scuola, pensate, che la formazione alla legalità l'ha messa anche nel piano dell'offerta formativa dell'istituto, il POF. Ad accompagnare l'anno scorso i bambini, l'insegnante Claudio Angeluccio. Su questo io posso dire che la Fondazione Falcone ha fatto grandi cose con il Ministero. Il fatto di permettere ai nostri ragazzi di andare tutti gli anni, un gruppo di ragazzi chiaramente, però poi riportano la testimonianza, a Palermo, a vivere ad essere sul posto e a incontrare i ragazzi del posto, è sicuramente uno dei momenti più educativi. Lei l'anno scorso è stata sulla nave della legalità insieme ai suoi studenti di quinta elementare, quindi ragazzini di 10 anni, che invece che portarli al parco dei divertimenti, insomma, avete deciso di portarli in gita scolastica, avete deciso di portarli a Palermo in occasione dell'anniversario della morte di Falcone. Com'è stato il clima sulla nave? I ragazzini cosa hanno capito di tutto questo? Il fatto che abbiano potuto contestualizzare quello che avevano letto, quello che avevano sentito, quello che gli era stato raccontato, sono tornati entusiasti e tra l'altro hanno capito al meglio che cos'era la mafia. Io posso raccontarle che l'anno scorso, per esempio, ci siamo trovati, perché lì poi si fa un corteo dall'aula bunker fino a sotto casa di Falcone. E noi lo abbiamo fatto con un gruppo di ragazzi di una scuola di Palermo, della periferia di Palermo. E si sono scambiati, i ragazzi raccontavano qual era la realtà delle scuole di periferia di Palermo. E devo dire che i miei alunni erano inizialmente sconvolti, perché chiaramente una scuola del centro di Roma non può nemmeno immaginare gli atti di vandalismo che vengono fatti lì e che loro raccontavano. Di come la scuola nelle periferie possa essere vissuta anche come un ostacolo, e questa cosa li aveva lasciati un po' sconvolti, perché loro considerano la scuola come un'istituzione importante dove non si danneggia nulla, un luogo sicuro. E da lì hanno capito che quello che si diceva poi della mafia, perché la cosa che colpisce molto i ragazzi è il fatto che la mafia possa trovare manovalanza nei bambini, nei giovani. Hanno capito, hanno colto proprio il senso di che cos'è vivere lì e di quanto sia importante che lo Stato, le istituzioni siano vicini a quei luoghi. Ed era bello vedere i ragazzi delle scuole di Palermo che erano lì con noi e che hanno conquistato la libertà dalla mafia. Questa era l'idea. Cioè, andando a scuola possono non diventare mafiosi. La scuola come un luogo di riscatto, insomma. Sì. Quindi i suoi ragazzini che cosa hanno raccontato dopo tutta questa esperienza, tornati a Roma? Guardi che c'è stato un entusiasmo tale che addirittura noi per portare i bambini procediamo al sorteggio. E ci è capitato di genitori che hanno accompagnato di persona i propri figli a Palermo, proprio per far sì che non erano stati sorteggiati, per far sì che partecipassero. Quindi posso dire che veramente c'è voglia di questo, c'è voglia di vivere questo momento. E sulla nave ci sarà anche Simone Pastori, che frequenta il terzo anno dell'Istituto Tecnico Commerciale Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Ma mi sembrava un'esperienza interessante, anche perché, diciamo, vorrei dare il mio piccolo contributo all'Italia, anche se magari può essere una roba modesta, tranquilla, però l'Italia è unita e quindi cerchiamo di renderla migliore. Chi era per te Giovanni Falcone? Ma secondo me è veramente un eroe, non gli eroi che si vedono alla televisione, che sono finti, superficiali a mio parere. Cioè, è stata veramente una persona che ha saputo lottare contro la mafia mettendo a repentaglio la sua vita e ha seguito i suoi ideali in tutti i sensi fino alla morte. Da Busto Arsizio, perché proprio da Busto Arsizio hai pensato di andare fino a Palermo? Beh, alla fine la tematica mafia riguarda un po' tutta Italia, magari più evidentemente coinvolge il sud, ma anche nell'interland milanese, diciamo che anche se il fenomeno può sembrare più nascosto, più sotterraneo, è presente, quindi mi sento anche direttamente coinvolto nella causa. Ad accogliere invece le navi della legalità il 23 a Palermo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello ZEN, il preside Domenico Di Fatta. Ma guardi, intanto è proprio fresca l'ultimo raid vandalico compiuto tra il 27 aprile e il 1 maggio, hanno proprio sfregiato il mezzo busto in marmo di Giovanni Falcone che è posto all'ingresso della scuola, hanno rotto completamente, polverizzato il naso e hanno scarabocchiato i baffi. A questo noi rispondiamo perché insieme con l'Accademia delle Belle Arti di Palermo si provvederà al restauro che sarà fatto degli studenti e i nostri alunni parteciperanno a questo laboratorio assistendo quindi al recupero di quello che qualche stupido ha voluto distruggere e rovinare. Ecco, lei parla di ennesimo episodio, quindi vuol dire che ce ne sono stati molti altri. Che cosa succede nella sua scuola? Ma succede che probabilmente proprio per questo voler fare rispettare la legalità magari diamo fastidio a qualcuno, perché poi il tentativo di far stare i ragazzi a scuola significa allontanarli dalla strada dove gira e rigira inevitabilmente finiscono nelle mani della criminalità. Perché voi siete in un quartiere molto particolare di Palermo, siete nel quartiere ZEN, un quartiere dunque insomma ad alta densità mafiosa potremmo dire, comunque insomma un quartiere povero, quindi cercate di lavorare anche sul territorio tenendo i ragazzi a scuola. Soprattutto un quartiere povero, disagiato, dove c'è un'altissima percentuale di microcriminalità e noi abbiamo un alto tasso di dispersione scolastica, per cui l'obiettivo è proprio quello di recuperare i ragazzi e farli stare a scuola, sia perché stando a scuola gli facciamo conoscere una realtà diversa dalla loro e perché contemporaneamente li strappiamo alla strada. Eh sì, perché non c'è terreno più fertile che un ragazzino ignorante che ha lasciato la scuola e non ha nulla da fare, non ha un lavoro, non ha né arte né parte. Sì, è che si lascia allettare dalla banconota di 10 euro che gli sembra chissà che cosa ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di avere in tasca qualcosina. Quindi il primo compito della scuola è quello di farli andare, no? I ragazzi a scuola, tenerli lì dentro dove respirano un'aria sicuramente corretta, giusta, nel segno della legalità. In che altro modo operate sul territorio, operate su questi ragazzi per spiegare loro come si deve vivere, come si deve stare lontani dalla mafia e perché soprattutto? Sì, operiamo coinvolgendoli in tantissimi progetti. Quest'anno per esempio abbiamo replicato proprio ieri un progetto realizzato con la locale stazione dei carabinieri che prevedeva che i ragazzi svolgessero delle attività sportive con i carabinieri in veste di istruttori e proprio ieri hanno fatto insieme una marcia i ragazzi del quartiere con i carabinieri, culminata poi con una fiaccolata proprio all'interno della scuola. Quindi cerchiamo di coinvolgerli in tutti i modi possibili all'interno del quartiere e anche con istituzioni come quella dei carabinieri che a loro non sono ben gradite. La figura di Falcone, come la ricordate all'interno della scuola? Ma noi quest'anno la ricordiamo partecipando alle celebrazioni del 23 maggio, andando ad accogliere la nave della legalità al porto e poi ci sarà una nostra rappresentanza all'interno dell'aula bunker. Dei nostri ragazzi insieme a quelli di altre scuole accoglieranno il presidente Napolitano cantando l'inno di Mameli. Vi è mai capitato che qualche famiglia vedesse di cattivo occhio questa opera, no? Di conoscenza dell'opera di Falcone e quindi più in generale della vostra piccola, nel vostro piccolo della vostra lotta antimafia? Ma guardi, da un po' di tempo a questa parte le famiglie si stanno avvicinando, per cui questo potrebbe essere un segnale positivo che la scuola comincia ad essere accettata, nel senso che le forze sane del quartiere, perché allo ZEN non sono tutti mafiosi o criminali, ci sono delle persone oneste, delle persone che vorrebbero svolgere correttamente il loro dovere. A poco stanno cominciando ad avere il coraggio di venire fuori. Speriamo bene. Era la prima edizione di Italia in Controluce, questa come tutte le puntate in podcast su radio24.it. Per comunicare con noi usate Facebook, pagina gruppo, Twitter, il blog sul sito della radio, la mail controluce@radio24.it.